Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Jursenar. Sostammo a Gerusalemme. Qui studiai sul posto la pianta d'una città nuova che mi proposi di costruire sul terreno della città ebraica distrutta da Tito. L'eccellente amministrazione della Giudea, l'incremento del commercio con l'Oriente rendevano necessario lo sviluppo di una grande metropoli in quell'incrocio di strade. Mi configurai la solita capitale romana. Elia Capitolina avrebbe avuto i suoi templi, i mercati, le terme pubbliche, il santuario della Venere romana. La mia simpatia di fresca data per i culti teneri e appassionati mi indusse a stabilire sul monte Moria una grotta dove si sarebbero celebrate le feste adonie. Tali progetti indignarono la plebe ebraica. Quei diseredati preferivano le loro rovine a una grande città nella quale verrebbero offerti tutti i profitti del guadagno, del sapere e del piacere. Gli operai che davano il primo colpo di piccone a quelle mura crollanti furono molestati dalla folla. Passai oltre. Fido Aquila, che più tardi doveva impiegare il suo genio di organizzatore nella costruzione di Antinopoli, si mise all'opera a Gerusalemme. Mi rifiutai di vedere il rapido crescere dell'odio su quei cumuli di macerie. Un mese dopo giungemmo a Pelusa. Mi affrettai a far restaurare la tomba di Pompeo. Più mi ingolfavo negli affari d'Oriente, più ammiravo il genio politico del mortale vinto dal grande Giulio. A volte Pompeo, che aveva cercato di mettere ordine in quel mondo malsicuro dell'Asia, mi sembrava avesse operato più efficacemente per Roma che non lo stesso Cesare. Quei lavori di restauro furono uno degli ultimi tributi che io resi ai morti della storia. Presto avrei avuto ben altri sepolcri a cui pensare. Il mio arrivo ad Alessandria avvenne con grande discrezione. L'ingresso trionfale era stato rimandato alla venuta dell'imperatrice. Avevano persuaso mia moglie, che viaggiava poco, a trascorrere l'inverno nel mite clima d'Egitto. Lucio, non ancora guarito da una tosse ostinata, doveva tentare lo stesso rimedio. Si adunava una flottiglia di barche in vista di un viaggio sul Nilo. Il programma comportava una serie di ispezioni ufficiali, di feste, di banchetti, che minacciavano di essere faticosi quanto quelli di una stagione al Palatino. Avevo organizzato io stesso tutto questo. Il lusso, il prestigio d'una corte non erano privi di valore politico in quel paese antico, avvezzo ai fasti regali. Ma a maggior ragione mi stava a cuore dedicare alla caccia i pochi giorni che precedevano l'arrivo dei miei ospiti. A Palmira, Meleo Agrippa aveva organizzato per noi le battute nel deserto. Ma non ci eravamo inoltrati abbastanza per incontrare i leoni. 2 anni prima l'Africa mi aveva offerto qualche bella caccia alle fiere. Ad Antino, troppo giovane e troppo inesperto, non avevo dato il permesso di prendervi parte in prima linea. Per lui avevo le viltà alle quali non avrei mai pensato per me stesso. Cedendo, come sempre, gli promisi un ruolo di primo piano in quella caccia al leone. Non era più tempo di trattarlo da bambino, ed ero fiero di quella giovane forza. Ma i primi giorni non ci fruttarono che qualche gazzella. Quella volta stabilimmo di andare ad appostarci entrambi nei pressi d'uno stagno sabbioso ricoperto di canne. Dicevano che al crepuscolo il leone vi si dissetasse. E improvvisamente, tra un fruscio di canne calpestate, apparve la belva regale. Volse verso di noi il suo terribile e magnifico muso, uno degli aspetti più divini che possa assumere il pericolo. Trovandomi un po' indietro, non ebbi il tempo di trattenere il fanciullo, il quale imprudentemente spronò il cavallo, lanciò la picca, poi i suoi 2 giavellotti con arte, ma troppo da vicino. La belva, trafitta nel collo, crollò, battendo il suolo con la coda. La sabbia sollevata ci impediva di distinguere altro che una massa ruggente e confusa. Infine, il leone si drizzò, raccolse le forze per slanciarsi sul cavallo e sul cavaliere disarmato. Avevo previsto questo pericolo. Per fortuna, la cavalcatura di Antino non ebbe uno scarto. I nostri animali erano mirabilmente addestrati a quella sorta di giochi. Gettai nel mezzo il mio cavallo, esponendo il fianco destro. Avevo l'abitudine a simili esercizi. Non mi fu difficile finire la belva già colpita a morte. Rovinò per la seconda volta. Il muso si voltolò nella melma. Un rivoletto di sangue nero colò sull'acqua. Il grosso gatto color del deserto, del miele e del sole, spirò con una maestà più che umana. Antino si precipitò giù dal cavallo coperto di schiuma che tremava ancora. I compagni ci raggiunsero, i negri trainarono al campo l'immensa vittima morta. Fu improvvisato una specie di festino. Il giovanetto, disteso sul ventre davanti a un vassoio di rame, ci distribuì con le sue stesse mani le porzioni di agnello cotto sotto la cenere. In suo onore si libò vino di palma. La sua esaltazione cresceva come un canto. Forse egli esagerava il significato dell'aiuto che gli avevo prestato. Dimentico che avrei fatto altrettanto per qualsiasi cacciatore in pericolo. Tuttavia, ci sentivamo riportati in quel mondo eroico nel quale gli amanti muoiono l'uno per l'altro. La gratitudine e l'orgoglio si alternavano nella sua gioia come le strofe di un'ode. I negri fecero miracoli. La sera stessa la pelle scorticata oscillava sotto le stelle, sospesa a due pali all'entrata della mia tenda. Malgrado gli aromi di cui l'avevano cosparsa, l'odore ferino ci assillò tutta la notte. L'indomani, dopo una colazione di frutta, lasciammo il campo. Al momento della partenza, scorgemmo in un fosso quel che restava della belva regale della vigilia. Non era più che una carcassa sanguinolenta sormontata da un nugolo di mosche. Pochi giorni dopo rientrammo ad Alessandria. E infine giunse l'imperatrice. La lunga traversata l'aveva affaticata, diventava fragile, senza cessare d'essere dura. Le sue amicizie politiche non mi procuravano più grattacapi, come all'epoca in cui aveva scioccamente incoraggiato Svetonio. Ormai si circondava soltanto di inoffensive letterate. La sua confidente del momento, una certa Giulia Balbilla, componeva versi greci abbastanza bene. L'imperatrice e il suo seguito presero stanza al Liceum ed uscirono raramente. Lucio, al contrario, era come sempre avido di tutti i piaceri, compresi quelli del pensiero e degli occhi. A 26 anni non aveva perduto quasi nulla di quella bellezza prodigiosa che lo faceva acclamare per le strade dalla gioventù romana. Seguitava a essere assurdo, ironico e gaio. I suoi capricci d'altri tempi erano diventati manie. Non si spostava senza il capocuoco, persino a bordo i giardinieri gli componevano prodigiose aiuole di fiori rari, dappertutto si tirava dietro il suo letto, di cui aveva disegnato il modello personalmente, composto di 4 materasse zeppe di 4 specie rare di aromi, un letto sul quale giaceva circondato dalle sue giovani amanti come da altrettanti guanciali. I suoi paggi dipinti, incipriati, acconciati come gli zeffiri e l'amore, si conformavano come meglio potevano a manie talvolta crudeli. Dovette intervenire per impedire che il piccolo Borea, del quale ammirava la figura sottile, si lasciasse morir di fame. Tutte cose più irritanti che graziose. Visitammo insieme tutto quel che si visita ad Alessandria, il faro, il mausoleo di Alessandro, quello di Marcantonio, dove Cleopatra eternamente trionfa su Ottavia, senza tralasciare i templi, gli opifici, le fabbriche e neppure il quartiere degli imbalsamatori. Da uno scultore pregevole comprai un blocco di Venere, di Diane e di Hermes per Italica, la mia città natale, che mi proponevo di rimodernare, di abbellire. Il sacerdote del Tempio di Serapide mi offrì un servizio di vetri opalini che feci inviare a Serviano. Per riguardo a mia sorella Paolina cercavo di mantenere rapporti abbastanza cordiali con lui. Durante queste ispezioni piuttosto fastidiose studiammo insieme vasti progetti edilizi. Ad Alessandria il solo idolo è l'oro. In nessun luogo ho visto postulanti più sfrontati. Iscrizioni pompose furono sciorinate un po' dappertutto per esaltare i miei benefici, ma ben presto il mio rifiuto di esonerare la popolazione da una tassa che era perfettamente in grado di pagare mi alienò quella turba. I due giovinetti che mi accompagnavano furono insultati più volte. A Lucio si rimproverava il lusso, eccessivo del resto, ad Antino le origini oscure, sul conto delle quali correvano dicerie assurde, a entrambi l'ascendente su di me che a loro si attribuiva. Asserzione ridicola questa. Lucio che pur giudicava i pubblici affari con perspicacia sorprendente, non aveva la minima influenza politica. Antino non tentava neppure di averne. Il giovane Patrizio, che conosceva il mondo, non fece che ridere di quegli insulti, ma Antino ne soffrì. Gli ebrei, sobillati dai correligionari di Giudea, facevano del loro meglio per inasprire quella pasta già acida. La sinagoga di Gerusalemme delegò il suo membro più venerato, Achiba, un vegliardo quasi nonagenario, il quale non sapeva il greco, per convincermi a rinunciare ai progetti già in corso di attuazione a Gerusalemme. Assistito da interpreti, ebbi con lui parecchi colloqui che, da parte sua, non furono che pretesti per monologhi. In meno di un'ora mi sentì in grado di intendere esattamente il suo pensiero, se non di sottoscriverlo, ma egli non compì lo stesso sforzo per quel che concerneva il mio. Quel fanatico non sospettava neppure che si potesse ragionare su premesse diverse dalle sue. Offrivo a quel popolo denigrato un posto tra gli altri nella comunità romana. Per bocca di Achiba, Gerusalemme mi faceva sapere la sua volontà di rimanere fino all'ultimo la fortezza d'una razza e d'un dio isolato dal genere umano. Questa risoluzione forsennata si esprimeva con sottigliezze estenuanti. Dovetti subire una lunga serie di ragioni, sapientemente dedotte le une dalle altre, della superiorità di Israele. Al termine di 8 giorni quel negoziatore ostinato s'accorse tuttavia d'aver sbagliato strada e m'annunciò che partiva. Detesto la sconfitta, persino quella altrui. Mi commuove soprattutto quando il vinto è un vecchio. L'ignoranza di Achiba, il suo rifiuto di accettare tutto ciò che non fosse i suoi libri santi e il suo popolo, gli conferivano una sorta di candida innocenza. Ma era ben difficile intenerirsi per quel settario. Pareva che la longevità lo avesse spogliato di qualsiasi duttilità umana. Quel corpo scarno, quello spirito asciutto, erano dotati di un vigore duro da cavalletta. Pare che in seguito sia morto da eroe per la causa del suo popolo, o piuttosto della sua legge. Ognuno si vota ai propri dei. Gli svaghi di Alessandria cominciavano a esaurirsi. Flegone, che in ogni luogo conosceva le curiosità locali, il lenone o l'ermafrodita celebre, propose di condurci da una maga. Codesta mediatrice dell'invisibile abitava a Canopo. Ci recammo colà nottetempo, in barca, sul canale dalle acque dense. Le sue predizioni furono sinistre. Dopo averci amareggiati il più che poteva, l'indovina ci propose i suoi servizi, uno di quei sacrifici magici di cui gli stregoni d'Egitto vantano la specialità. Sarebbe bastato per accomodare tutto amichevolmente col destino. Le mie incursioni nella magia fenicia già m'avevano fatto comprendere che l'orrore di quelle pratiche proibite risiede non tanto in quel che ci viene mostrato, quanto in quello che ci si nasconde. Se non fosse stata nota la mia avversione per i sacrifici umani, probabilmente mi si sarebbe proposto di immolare uno schiavo. Ci si contentò di chiedermi un animale domestico. Thank you. La vittima sacrificale, per quanto era possibile, doveva avermi appartenuto. Non poteva trattarsi d'un cane, bestia che la superstizione egizia ritiene immonda. Sarebbe stato opportuno un uccello, ma io non viaggio accompagnato da un'uccelliera. Il mio giovane amico mi propose il suo falcone. Le condizioni si sarebbero trovate adempiute. Quel bell'uccello gliel'avevo regalato io stesso dopo averlo ricevuto dal re d'Osroene. Il fanciullo lo nutriva con le sue mani. Era una delle poche sue proprietà alle quali si fosse affezionato. Sulle prime rifiutai. Insistette, serio. Compresi che attribuiva un significato straordinario a quell'offerta e accettai per farlo contento. Il mio corriere Menecrate, munito delle istruzioni più minuziose, partì per andare a prendere quell'uccello nei nostri appartamenti del Serapeo. Anche al galoppo la corsa avrebbe richiesto più di un paio d'ore. Non era il caso di trascorrerle nella sudicia stamberga della maga e Lucio si lamentava dell'umidità della barca. Flegone trovò un espediente. Ci si installò alla meglio presso un mezzano dopo esserci sbarazzati del personale della casa e Lucio stabilì di dormire. Io profittai di quell'intervallo per dettare alcuni dispacci. Antino si stese ai miei piedi. Il calamo di Flegone crepitava sotto la lampada. Toccavamo già l'ultima veglia della notte quando Menecrate riportò l'uccello, la manopola, il cappuccio e la catena. Ritornammo dalla maga. Antino tolse il cappuccio al suo falcone, ne carezzò lungamente la testolina insonnolita e selvatica, lo consegnò all'incantatrice, la quale diede inizio a una serie di riti magici. L'uccello, affascinato, si riaddormentò. Bisognava che la vittima non si dibattesse e che la morte sembrasse volontaria. L'animale, già inerte, cosparso di miele e di essenze di rose, fu deposto sul fondo d'una bacinella colma d'acqua del Nilo. La creatura annegata si assimilava a Osiris portata dalla corrente del fiume. Gli anni terrestri dell'uccello si aggiungevano ai miei. La piccola anima solare si univa al genio dell'uomo, al cui favore si sacrificava. Ormai quel genio invisibile avrebbe potuto apparirmi e servirmi sotto quella forma. Le lunghe manipolazioni che seguirono non furono più interessanti di una preparazione culinaria. Lucio sbadigliava. Le cerimonie imitarono fino all'ultimo i funerali umani. Fumigazioni e salmodie si prolungarono fino all'alba. L'uccello fu racchiuso in una bara colma di aromi che la maga sotterrò in nostra presenza in riva al canale, in un cimitero abbandonato. Poi si accoccolò sotto un albero per contare a una le monete d'oro del suo compenso che Flegone le aveva versato. Risalimmo in barca. Soffiava un vento singolarmente gelido. Lucio, seduto accanto a me, traeva a sé con la punta delle dita sottili le coltri di cotone ricamato. Solo per cortesia seguitavamo a scambiarci saltuariamente qualche frase sulle faccende e gli scandali di Roma. Antino, disteso in fondo alla barca, mi aveva posato la testa sulle ginocchia. Fingeva di dormire per isolarsi da quella conversazione da cui si sentiva escluso. La mia mano gli scivolava sulla nuca tra i capelli. Così, sempre, nei momenti più vuoti e opachi, avevo la sensazione di restare a contatto con i grandi soggetti della natura, la densità delle foreste, il dorso muscoloso delle pantere, la pulsazione regolare delle sorgenti. Ma non v'è carezza che giunga fino all'anima. Quando giungemmo al Serapeo, il sole brillava. I mercanti di cocomeri gridavano nelle strade la loro merce. Dormii fino all'ora della seduta del Senato locale, alla quale presenziai. In seguito, seppi che Antino profittò di quell'assenza per persuadere Cabria ad accompagnarlo a Canopo. Tornò dalla maga. Gianni Musi ha letto Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.